E la collana niente. E io ho detto, beh, ma di la verità ci deve essere anche qualcos'altro. E dice, ma venga giù, venga a vedere. E infatti sono scesa. Cioè ce l'ha restituito tutto tranne la collana. Esattamente, ma addirittura la cosa così, che lascia ancora più stupiti è che non è che si vedesse nulla dall'esterno, perché la bustina che conteneva la collana era abbastanza piccola, insomma, e poi rimaneva sul fondo della borsetta. Quindi bisogna che qualcuno effettivamente di giorno, di notte, adesso io non so, non voglio dire nulla, si è andato proprio a vedere cosa c'era. Proprio cosa c'era. Ma ho letto oggi sul Fatto Quotidiano 100 furti in 3 anni, iPad, cappotti. I cappotti pare che siano quelli che scompaiono più facilmente. Sì, i Loden, è il tempo del Loden, forse adesso con Loden. Ma può darsi, ma non ho visto tanti Loden, però, no, per dire la verità. No, quelli sono al governo. Anche una pelliccia mi hanno detto. Sì, una pelliccia di visone da 8.000 euro all'ex ulivista Elisa Pozzatasca, color crema 8.000 euro, adagiata su un divanetto e zacca è scomparsa. Ma com'è possibile, onorevole Gozis, proprio nel Parlamento? Sì, beh, certo. Si presta facile ironia, questa cosa. Sì, è facile ironia, però diciamo anche che c'è tanta gente che circola, in transatlantico. È diverso è se succede in aula, perché in aula effettivamente al di là ci sono quei 4-5 messi e poi ci sono tutti i parlamentari. Ecco, a questo a proposito, lei pare si sia lamentata perché l'assicurazione non copre il furto in transatlantico, cioè nelle zone fuori, mentre solo in aula copre. Solo in aula, esattamente. È uno scandalo questo. Sì, beh, è uno scandalo, cioè io penso che il posto dove si dovrebbe essere più sicuri dovrebbe essere appunto il Parlamento, all'interno del Parlamento, poi il transatlantico che si affaccia sull'aula, insomma, dovrebbe essere garantito, anche perché è vero vorrebbe, che vorrebbe l'assicurazione sul furto anche all'interno del Parlamento. Insomma, anche perché se è vero che succedono fatti di questo tipo, finché ti prendono il telefonino, vabbè, può anche essere più che altro un fastidio perché magari dentro hai numeri e cose di questo tipo, ma che ti portino via pellicce o addirittura sì. Non è simpatico. Senta, ma non è che qualcuno fa l'ironia a dire, non è che con i tagli che fanno la politica vi siete ridotti a rubarvi le cose? No, perché io da quando sono dentro ho sempre sentito che ci siano, c'è sempre stato, non è da adesso. Accidenti, sì, proprio. Senta, invece cambiando discorso, la questione politica, vabbè, questa è una brutta disavventura, la questione politica, ma lei che è una combattiva, una leghista combattiva, se incrocia quella mezza calzetta lì, che cosa gli dice? Quale? La cartuccia, lì la mezza cartuccia. Beh, io non so chi sia la mezza cartuccia. Beh, Berlusconi, no? Ah, beh, ma io Berlusconi, guardi, Bossi, non è che lo ami particolarmente. Appunto, per quello che... Cioè, Bossi ha detto che è una mezza cartuccia, che ha paura. Sì, ho sentito ieri. È così, è una mezza cartuccia. Beh, sappiamo che Bossi è sempre molto colorito nelle sue espressioni. Quindi insomma, e anche per questo gli scusiamo anche tante frasi, insomma, sì, che dice, no? Cioè, quindi se la incrocia Berlusconi cosa gli dice? Buongiorno. E basta. Se è giorno, se è sera, gli dico buonasera. non si spinge oltre, ma eravate al governo insieme fino a 2 mesi fa. Ma anche quando eravamo al governo gli dicevo buongiorno, buonasera, non è che abbia mai... Non l'ha mai stimato particolarmente. Beh, insomma, io posso stimo la persona, insomma, se nella sua vita è arrivata qualcosa, insomma, vuol dire che c'è qualcosa di valido. Cosa non stima di Berlusconi? Beh, diciamo certe scelte che ha fatto. Cioè per esempio, il fatto che ha portato in Parlamento delle persone, ecco, che forse non erano le più specchiate. A chi si riferisce? Mi limito a dire questo. Ma ha qualche nome in particolare? No. Si non riferisce ne che fare. Cosa? Il rapporto personale con le donne, Berlusconi e le donne, questo? Beh, io ho un rapporto, diciamo, con le colleghe, eccetera, e spesso ho sentito delle colleghe del PDL lamentarsi per questo fatto, perché persone che magari abbiano così vissuto la loro esperienza politica anche da anni, che si siano spese personalmente e così, e poi magari si sono viste anche scavalcare, diciamo, pure da altre, da quelle appena arrivate, che magari sì, non erano poi questi grandi personaggi, effettivamente io le ho sentite molto molto lamentarsi, sì, quindi offese, ecco, questo non senza dire che poi tutte noi donne in qualche maniera siamo stati in qualche modo penalizzate da questa cosa, perché poi da lì ne deriva il discredito anche di tutto il Parlamento, di tutte le donne, del Parlamento e di tutte le donne in modo particolare, insomma. Senta, cosa vuole fare? Una proposta di legge per l'assicurazione in aula anche per i furti? Beh, io no. Insomma, non arrivo a questo. No. Se lo vogliono fare, lo facciano. Certo che io ho detto anche, ma allora se tanto vale tanto, può entrare chiunque in Parlamento, potrebbe esserci anche una questione, non tanto in Parlamento, in transatlantico, potrebbe sì. esserci anche una questione di sicurezza, il fatto che non ci siano delle telecamere, perché infatti ci sono delle cose lì in alto che sembravano telecamere, invece sono invece no. dei sensori per il fumo, cioè antincendio. Ecco, per cui io penso che proprio per la sicurezza di tutti, proprio perché in transatlantico passa tanta gente, forse una telecamera non guasterebbe. Insomma. Un'ultima battuta, lei guadagna troppo, tanto o il giusto da parlamentare? Beh, da parlamentare diciamo che non ci possiamo certo lamentare, però non è così come i giornali e le televisioni portano, che suscitando anche, e poi soprattutto in questo momento di crisi, diciamo la rabbia anche dei cittadini, e diciamo anche che abbiamo tante spese, nel senso c'è tutto il rapporto col territorio, ci sono certe cose che altrimenti non potremmo fare. Ma che rapporto deve avere uno col territorio? Siete un Parlamento di nominati con questa legge? Nominati, ma prima di essere nominati noi eravamo sul territorio. Sono conosciuta adesso nel territorio di Padova, perché io da anni, sono 20 anni che sono nella Lega, quindi 20 anni che sono esposta, che la gente mi conosce, mi stima. Perché la Lega è un partito molto legato ai territori, frequentate. Però adesso, volendo lei, se viene scelta da Bossi o dal capo della Lega, anche se è un'emerita sconosciuta, ci sono dei casi, li ha citati, ha fatto riferimento anche lei, può essere eletto in Parlamento senza neanche fare un giorno di campagna elettorale. Adesso io parlo per il nostro partito, noi la campagna elettorale la facciamo sempre, e spendiamo anche di nostro, perché prima di arrivare in Parlamento abbiamo speso tanti soldi per la Lega, per i manifesti, per le cene, anche a volte per i nostri militanti, perché giustamente chi viene a lavorare, i nostri vengono a lavorare tutti gratis, c'è tutto volontariato, hai la sede, hai l'ufficio, hai insomma la detto stampa, hai anche un certo rapporto con i cittadini. Ha detto stampa, spero regolare, a contratto regolare. Certamente. No, perché non tutti i parlamentari sa. Certamente. Ce l'hanno regolare. E anche voglio dirlo, non sarà di tutti i parlamentari, ma io parlo per me, anche il rapporto con i cittadini che si trovano spesso a dover andare in comune, magari a chiedere qualcosa perché non hanno pagato la bolletta, perché gli hanno tagliato il gas, e vengono da me. Pagare la bolletta del gas a qualcuno. Certo. Ha pagato la bolletta del gas? La bolletta del gas, la bolletta della luce. Cari cittadini di Padova, se avete dei problemi, cioè lei usa, diciamo, per le persone più in difficoltà, pagare a volte la bolletta. Certo, perché no? È capitato. Va bene, no, le fa onore. No, perché voglio dire, siccome si sta demonizzando in modo particolare la classe politica, allora io voglio dire, io faccio politica così come ho sempre fatto il mio lavoro precedentemente. E fa questo. Ho lavorato per 35 anni, quindi sono sempre stata molto attenta anche alle cose sociali, anche quando non ero in Parlamento, per cui va bene, e questo lo fa, no, ma le fa onore. Onorevole, la devo salutare, la ringrazio per essere stata con noi. Paola Goisis, mi spiace per il furto della collana con ametista, 3.000 euro di valore, e noi andiamo in pubblicità e meteo, poi parleremo allora di questa cittadinanza ai cittadini stranieri, ma un figlio di un immigrato che nasce in Italia, allora secondo voi è italiano oppure no? 24 mattino. Eccoci qua, le 8:37 minuti. Allora, la domanda che vi ho posto è questo: un immigrato, un figlio di immigrati che sta in Italia, che nasce in Italia, è per questo stesso gesto, per questo stesso fatto di nascere in Italia, deve essere considerato italiano, cioè deve prevalere lo ius soli? Rispetto allo ius sanguinis, che è quello che vige oggi in Italia, la pensa così per esempio il presidente della provincia di Pesaro e Urbino del Partito Democratico, Matteo Ricci, che saluto. Buongiorno presidente Ricci. Buongiorno a tutti. Mi lasci salutare anche l'onorevole Daniela Santanchè, buongiorno del Popolo della Libertà. Santanchè, buongiorno. Allora Ricci, lei la pensa così, ha dato la cittadinanza onoraria, è un gesto simbolico certo, perché non è una cittadinanza vera, a 4.536 bambini e bambine nati negli ultimi 10 anni nel pesarese, pur essendo figli di immigrati. Perché l'ha fatto? Ha fatto un gesto dimostrativo o che cosa? Ma non abbiamo voluto far cadere nel vuoto questa sfida culturale che il presidente Napolitano ha lanciato qualche mese fa. L'idea molto semplice è che chi nasce in Italia è italiano. Del resto siamo nel mezzo di una crisi economica, il presidente Napolitano è diciamo colui che più di altri si sta adoperando per salvare l'Italia dal baratro, ma al tempo stesso ha lanciato questa sfida perché sa benissimo che da questo momento di difficoltà si esce anche con una nuova scala di valori. Si può uscire con più solitudine e egoismo oppure con più giustizia e solidarietà, e noi abbiamo bisogno assolutamente di prendere questa seconda strada. Ma tra l'altro Napolitano, che ha fatto un plauso a questa iniziativa, so che oggi lei lo incontrerà nell'ambito delle cerimonie per la giornata della memoria, magari ci sarà anche spazio, non lo so, questo per scambiare due parole su questo tema, però capisce che la frase "chi nasce in Italia è italiano" è una proposizione molto molto forte. Cioè, questo vuol dire anche per chi nasce in Italia e sta in Italia un mese, per esempio? Per chi nasce perché è di passaggio in Italia? Ma in alcuni paesi come gli Stati Uniti e la Francia le cose sono così. Io penso che in Italia, se vogliamo affrontare veramente il problema, si possa ragionare anche su un periodo minimo di residenza da parte dei genitori. Ci sono proposte di legge in questo senso che parlano di 2 o 3 anni di residenza da parte dei genitori, però è chiaro che stiamo facendo una battaglia di principio importante. Io prima di essere presidente sono padre e non capisco perché bambini che stanno crescendo con i miei figli, che vanno a scuola, parlano l'italiano meglio dei miei figli, addirittura spesso e volentieri parlano il dialetto, non possano essere considerati cittadini italiani. Qualche giorno fa ho partecipato ad un'iniziativa dei senegalesi avvenuta dopo i fatti tragici di Firenze, e nel mezzo della cerimonia una bambina di 6 anni ha cantato l'inno di Mameli. Io penso che i miei figli l'inno di Mameli non lo sappiano, è la dimostrazione che quei bambini si sentono italiani almeno quanto i miei. Almeno tanto quanto i suoi. Daniela Santanchè, su questa posizione lei è schierata su una posizione ben diversa, no? L'idea "chi nasce in Italia è italiano anche se figlio di immigrati" non le piace, le sembra un po' troppo forte. Ma secondo me non basta nascere in Italia, perché come diceva anche lei poc'anzi, allora se una persona viene in Italia perché il figlio debba avere la cittadinanza italiana e va via dopo 2 mesi, questo non starebbe in piedi. Ma io credo che è un altro problema. Bisogna vedere se chi può avere la cittadinanza italiana vuole essere italiano. Non è tanto nascere in Italia, ma voler essere italiano, amare la patria, essere cresciuto in un'educazione nel rispetto della nostra cultura, delle nostre tradizioni, non soltanto delle nostre leggi. È un problema culturale. Voler essere italiano vuol dire che bisogna avere la certezza di un certo tipo di educazione che è tesa all'appartenenza di una patria, perché io vorrei sapere un bambino che nasce in Italia, che poi viene educato nel nome della Sharia, della poligamia, dell'infibulazione, se deve essere cittadino italiano. Io dico che la cittadinanza non è un punto di partenza, è un punto di arrivo di un percorso che si deve fare per voler essere veramente italiani, perché poi ricordiamoci che dobbiamo sempre legare i diritti ai doveri e i doveri ai diritti. Abbiamo visto in Inghilterra cosa è successo: chi ha messo le bombe nella metropolitana era un cittadino inglese. Vabbè, però citare questa cosa cosa c'entra? Santanchè, cioè, cosa dovremmo fare allora? Cosa dovremmo fare? Un esame, un'educazione? Cioè, molti italiani, guardi, non sono educati al rispetto della patria. Anche molti italiani non rispettano la patria, questo... cosa facciamo? Gli togliamo la cittadinanza? Va bene lo stesso, ma non credo che molti italiani vivano in un fondamentalismo non nel rispetto di quello che è la cultura e la nostra tradizione. Se ci sono, non va bene assolutamente. Se non rispettano le leggi, non va bene, però lei non può dire che cosa c'entra. C'entra perché ho fatto questo esempio estremo per spiegare a chi ci ascolta di stare attenti, non vuol dire di fare attenzione. Essere cittadino italiano per voler essere italiano, e questo è il punto di differenza. Molti lo fanno per che cosa secondo lei? Comodità, vantaggi? Per interessi. Per comodità, per vantaggi. Io dico che non sono contraria in linea, cioè sono contraria in linea di principio, cioè sono contraria assolutamente a chi nasce in Italia, che sia italiano tout court. Sono assolutamente d'accordo di aprire un dibattito e vedere quale deve essere il La cosa importante, presidente Ricci, che Santanchè dice: voglio che una persona si senta intanto italiano. Questo automatismo per cui uno nasce in Italia e diventa italiano non le piace, poi può provocare anche delle situazioni anche estreme come quella che è venuta in Inghilterra. Ricci, che risponde a questo? In Inghilterra non c'entra assolutamente nulla con questo dibattito. Basta parlare con un po' di bambini, di ragazzini nati qua, cresciuti qua, per capire se si sentono italiani. Noi abbiamo appena chiuso quel 150° dell'Unità d'Italia. Nelle nostre manifestazioni era pieno di bambini stranieri nati qua, che sventolavano la bandiera italiana, che cantavano l'inno di Mameli. I bambini si sentono italiani, ovviamente hanno una famiglia che ha altre origini, ma si sentono italiani. Però capisce questo che magari quei bambini. No, ma questo sì, magari vuol dire quei bambini. Però il concetto che diceva Santanchè dice: se uno mette un automatismo, cioè chi nasce in Italia, vuol dire dentro tutti. Allora c'è quello che si sente davvero bambino italiano, ma c'è quello che invece no. Ma guardi, come ha giustamente detto lei, questo può valere per tutti, no? Abbiamo riscoperto l'orgoglio di essere italiani grazie alle manifestazioni del 150°. C'è chi fino a qualche mese fa era seduto è ancora seduto in Parlamento, era seduto nei banchi del governo, che inneggiava ad uno Stato che non esiste. Quindi se apriamo questo discorso sull'italianità non finiamo più. Io il ragionamento che faccio è un ragionamento, credo, di civiltà, che ha anche molto a che fare con il futuro del nostro paese. Cioè l'Italia è fatta così, non siamo più un paese di prima immigrazione, ormai sono passati più di 20 anni dalla prima immigrazione. Anche noi dobbiamo porci problemi che si sono posti altri problemi europei decine di anni fa, e in modo questo anche per guardare in avanti e far sentire cittadini italiani coloro che in questo momento stanno dando un po' di natalità al nostro paese, che è un paese che invecchia, sono coloro che spesso e volentieri ci aiutano a pagare le pensioni, e sappiamo quanto sia caldo questo tema. Cioè si tratta di affrontare il tema con realismo. Se vogliamo evitare, anche se secondo me questa è una leggenda metropolitana, cioè l'idea che con questa nuova legge arriveranno flotte di immigrati a partorire qua, se vogliamo evitare anche questa leggenda metropolitana, accordiamoci su un tempo minimo di residenza, ci mettiamo d'accordo su 2-3 anni di residenza dei propri genitori, un compromesso, e questa potrebbe essere un buon compromesso. Allora, le informazioni sul traffico, poi ripartiamo, c'è anche qualche ascoltatore, poi c'è Beppe Grillo che non è che abbiamo Beppe Grillo, ma Beppe Grillo, toccando questo tema, ha scatenato un putiferio, no? Anche tra i suoi ecco, adesso se dico il termine seguaci so che mi insultano tutti, è che non mi viene, tra coloro che insomma seguono il suo blog, ecco, vi piace così, asettico, tra poco. Allora, 800 24 00 24, ci ha chiamato Yang, spero di pronunciarlo bene, mi dicono senegalese, se non sbaglio. Sì, giusto. Da Treviso, giusto. Ecco, dica Yang. Buongiorno. E tanto sofferenza intanto per essere d'accordo per una volta con la Santanchè, e dico al signor sindaco di Pesaro che non bastano fare le festicciole per integrazione, bisogna fare il presidente della provincia di Pesaro e Urbino, bisogna insegnargli cosa è l'integrazione prima, perché non basta essere nati in Italia per essere italiano. Un italiano deve sentirsi italiano, perché in Francia e in Inghilterra, dove succede, ci sono 2 francesi e 2 inglesi. Uno deve sentirsi la patria dentro, e poi tanti immigrati non è che lo vogliono per diventare degli italiani a pieni, a mano la patria Italia, lo fanno per comodità oppure per avere le carte. È successo, io ne so qualcosa perché sono 22 anni che vivo qua. Ma lei è senegalese? Ha la cittadinanza italiana? Sì, io ho la cittadinanza italiana. Italiana. Io sono dopo 22 anni perché mi sento italiano, i miei figli si sentono italiani, vogliono diventare italiani, e quando sarà tempo e ora e integrati si sentono italiano, richiedono la cittadinanza e diventano italiani. Non è invece una cosa automatica, uno si sente dentro. Insomma, lei anche se ha sentito Santanchè, dice Yang, dice anche se con sofferenza mi tocca dare ragione alla Santanchè, vabbè, nella sua posizione, che ne pensa? Lei è invece sulla posizione di Beppe Grillo. No, ma questo per dire che questo tema è talmente complicato, se si vuole, trasversale. Che ne pensa anche della posizione di Beppe Grillo, che certo lei non ama, Santanchè? No, ma Guardi, la telefonata che abbiamo appena ascoltato è assolutamente fondamentale, perché tutto questo, cioè dare la cittadinanza tout court così, fa male agli immigrati fa male. Perché, come abbiamo sentito dalle parole di un immigrato che vive nel nostro paese da 22 anni, sono i primi loro che si devono difendere da tutto questo. Poi, scusi, sentire il Presidente che è disposto, tra virgolette, a barattare valori perché loro sono le persone che mettono al mondo più bambini, quindi aumentano la natalità, coloro che ci aiutano a pagare le pensioni, è un altro punto sul quale io non ci posso. Ma non è un baratto di valori, uno nasce, facciamo un compromesso, ma velocizziamo una pratica. Ha detto una cosa diversa, sì. Ha detto siccome c'è la crisi, sì. E siccome queste persone aumentano la natalità e siccome ci aiutano a pagare le pensioni come fosse un premio. Presidente Ricci, non ci sto. Sentiamo Presidente Ricci. Intanto penso che se il tempo ovviamente della trasmissione è poco, ma se potesse ricevere tante altre telefonate. Yang ci ha chiamato. Ce ne sono tanti che la pensano diversamente. Sicuramente, ma il nostro pubblico è vario. Io ho semplicemente fatto, onorevole Santanchè, un ragionamento di futuro. L'Italia di oggi non è l'Italia di 30 anni fa, l'Italia di domani non può essere l'Italia di 30 anni fa, bisogna avere in questo momento la grande capacità di immaginare il futuro di questo paese, e non riuscire a immaginare il futuro di questo paese partendo dal dato di fatto che siamo ormai a 20 anni dalla prima immigrazione, che ci sono bambini, ragazzi che sono nati e cresciuti qua, che hanno gli stessi diritti e doveri dei nostri figli, è un modo per non guardare all'oggi e al domani del nostro paese. Questo è il ragionamento che io ho fatto. E dopodiché capisco che questo è uno dei tanti temi dell'integrazione. L'integrazione non avviene soltanto attraverso la cittadinanza, avviene attraverso una scuola che funziona, avviene attraverso l'apprendimento anche dei doveri, ma questo è un problema anche degli italiani. Gli italiani siamo un po' strani, perché guardiamo sempre ai nostri diritti e ai doveri degli altri, mentre invece la nostra Costituzione ci insegna entrambi. Ha a che fare con politiche sociali, politiche urbanistiche che evitano la ghettizzazione. Ma è chiaro, però lei dice però passa anche attraverso questa battaglia culturale. Del resto, non solo il presidente Napolitano, le più alte gerarchie ecclesiastiche si sono espresse favorevolmente, tutti coloro che si occupano di immigrazione, sia che siano volontariato laico cattolico, si sono espressi ma guardi, ma è anche una posizione trasversale politica, anche il presidente della Camera Fini, e non lo cito troppo ad alta voce, sennò Santanchè si arrabbia. Santanchè, ho 30 secondi per chiudere, ma vi faccio una domanda che non c'entra niente, ma questa storia della mezza cartuccia, lo sente lei la mezza cartuccia, lo vede, è davvero una mezza cartuccia? No, assolutamente non è una mezza cartuccia, siamo abituati da anni ormai al linguaggio di Bossi, e quindi voglio dire fa parte del suo modo di fare politica e di parlare alla pancia del suo elettorato. Dico però che avremo bisogno di più Berlusconi. Nel senso che mi verrebbe verrebbe da dire quella frase: sale a bordo Berlusconi, cazzo. Ah, l'ha detto oggi, lo scrive anche Belpietro, me la ridice? Lo faccia come appello in chiusura. Ho detto c'è bisogno più di Berlusconi, oggi direi sali sulla nave Berlusconi, cazzo. Va bene, ci fermiamo qui, ringrazio tutti, da Viola Bottoni, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti in redazione con noi, il nostro Alessandro Longoni anche, e Peter Bescapè, il nostro alpino. Ci troviamo lunedì alle 7:20. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.